oggi che giorno è? Giorno dedicato a te. Mamma che sei per me la più grande colonna che c'è. Sono felice di dirti che ti auguro ogni bene perché mamma tu sei la regina di tutte le mamme di questo mondo, grazie a te io esisto, cresco e non casco in questo bosco di società, così che il futuro convinto sfido, sicuro che perché ci sei, nei giorni di triste foschia, nei momenti di malinconia, forse sono ancora un bambino, mi piace restarti vicino, vicino per dirti che sei la regina di tutte le mamme di questo mondo, grazie a te io esisto, cresco e non casco in questo bosco di società, così che futuro convinto sfido, sicuro che